Martedì 25 ottobre alle ore 21 andrà in scena la performance di Winter Family dal titolo Patriarchy Living in Eternal Lockdown, ma non sarà l'unico evento di quella serata, ma in ogni caso noi siamo qui per parlarne con Andrea Mocchi Sismondi, direttore artistico di Atelier C, quindi buongiorno Andrea e bentornato ai microfoni. Ciao, buongiorno, bentrovate e bentrovati. Martedì 25 ottobre, giornata da segnare in calendario, io partirei dallo spettacolo, dalla performance di Winter Family, perché già dal titolo ci sono delle parole chiave, no? Che mi piacerebbe potessi raccontare. Sono patriarcato e lockdown. Che cosa indicano? Che cosa intendono? Il Winter Family, che è un duo franco-israeliano che abbiamo già ospitato in residenza nel 2015 e sono secondo me straordinari nel porre in relazione il linguaggio drammaturgico teatrale con il linguaggio musicale. Sono sia attori e drammaturghi che musicisti e compositori. In questo caso hanno fatto un'operazione veramente particolare, nel senso che loro sono una coppia anche nella vita e hanno una figlia di 14 anni. Durante il lockdown, Ruth, che è la donna della coppia, ha trascritto le espressioni, le frasi, i modi di rivolgersi di Xavier, che è l'uomo, che riconosceva problematici da un punto di vista di assunzione del paradigma patriarcale, quindi in qualche modo dei retaggi. Potete immaginare che appunto non stiamo parlando di una famiglia tradizionale, ma comunque con dei retaggi nel modo di rivolgersi tra di loro, e su questo poi hanno costruito questo spettacolo. Quindi poi Xavier, diciamo, si è messo in discussione e insieme hanno costruito questa composizione che è fatta, diciamo, mette in scena, mette a nudo la vita di questa coppia con figlia durante il lockdown, attraversando tutta una serie di espressioni che sono veramente lampeggianti per i modelli che si portano dietro, e di questo hanno fatto una composizione performativa in cui dentro c'è sia il teatro che la loro vocazione musicale, quindi è anche un concerto. Infatti l'altra cosa che, scusami se ti interrompo, ma l'altra cosa che appunto mi incuriosiva molto è anche la descrizione, no, dello spettacolo, tra teatro documentario e concerto metal. In che senso? Nel senso che appunto queste frasi, questi elementi linguistici prendono proprio il paradigma della ricerca sul campo. È come se loro avessero fatto di loro stessi sia gli etnografi che vanno a studiare una situazione, sia gli oggetti di osservazione, no? Quindi c'è questa forma di riflessione su se stessi proprio attraverso un processo documentaristico, andando a registrare in presa diretta, anzi con un microfono nascosto, che cosa accade. Poi tutto questo è composto attraverso una rielaborazione musicale, nel senso che in scena, cioè appunto, ci sarà Xavier che suonerà, ci sarà l'Hammond, ci sarà il sitar, ci saranno i loro suoni metallici ed elettronici che si portano, diciamo, nel loro percorso di sviluppo musicale. Un'altra particolarità è che due artisti, come dicevi giustamente tu, sono di origine franco-israeliana, quindi lo spettacolo sarà appunto nella loro lingua, però con una traduzione dal vivo. Sì, la cosa interessante è questo rispecchiamento, nel senso che loro ci hanno fatto questa proposta indecente di essere in scena con loro, io, Fiorenza e Marco, nostro figlio, quindi diciamo in qualche modo un'altra coppia con un figlio maschio, e di sovrapporre la traduzione italiana delle loro parole, del loro testo, alla pronuncia in francese. Questo è anche lo scopo del periodo residenziale che loro stanno passando da noi, sono 15 giorni che sono da noi, e insieme abbiamo composto questa partitura per cui quando in sovrapposizione, quando in simultanea, quando in consecutiva, quando aspettandosi, diciamo, le nostre sei voci si intrecciano, quindi ci sarà la versione originale in francese e su uno stesso, diciamo, come su un'altra traccia, ma contemporaneamente la versione in italiano che sarà a cura mia, di Fiorenza e di nostro figlio Marco. Quindi è un gioco di specchi interessante, sia linguistico sia ovviamente identitario e intimo. Prima di questa performance, come dicevamo all'inizio intervista, ci sarà anche un altro evento, ovvero la presentazione di un libro dal titolo Grand Tour Sentimentale, e i due eventi si collegano tra loro nella serata? Sì, assolutamente. Quando abbiamo pensato appunto di ospitare questo lavoro di Winter Family, ci è venuto in mente il Grand Tour Sentimentale di Elisa Casseri, che è un libro che è uscito quest'estate, che abbiamo amato moltissimo. Anche lei si è messa con gli strumenti dell'etnografo e della ricerca sul campo durante tutto il lockdown per 2 anni a condurre un'indagine sulle nostre modalità di vivere l'emotività, i sentimenti, l'amore, il sesso, le relazioni genitoriali, le relazioni con i figli. È partita con Zainetto in spalla, passando per le diverse case, quando a distanza e quando in presenza, andando a porre una serie di domande che costituiscono, sono 790 mail scambiate, sono 100 ore di registrazione, 90 persone, 90 profili emergono, costruendo una sorta veramente di biografia collettiva di qual è il nostro stato emotivo, quali sono le molteplicità della visione dell'amore, quali sono i buchi nell'anima, quali sono le forme di autoesaltazione. È proprio un panorama dello stato emotivo, diciamo, delle nostre comunità. Poi è interessante perché lei non ha lavorato nella nostra bolla, in cui bene o male abbiamo un linguaggio comune, ma attraverso una human network, diciamo una rete umana, si è fatta dare dei nomi che esulavano anche dalla conoscenza diretta, quindi si è trovata veramente ad attraversare un mondo che per provenienza, età biografica, attitudine alla vita è molto vasto e divertentissimo da attraversare. Quindi presenteremo questo libro con Elisa, che sarà con noi, ne leggeremo alcune parti. È divertentissimo, proprio, infatti sono molto felice di questa introduzione alla serata. Bene Andrea, quindi insomma ci segniamo sul calendario domani sera, la Telersì dalle 19 se non sbaglio, per tutta la serata. Esattamente, alle 7 inizia la presentazione e poi alle 9 lo spettacolo. Grazie ancora Andrea. Grazie a te e a voi.